Essere e benessere di Nicoletta Carbone. È in noi che i paesaggi hanno paesaggio. Perciò se li immagino, li creo. Se li creo, esistono. Se esistono, li vedo. La vita è ciò che facciamo di esse. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. Fernando Pessoa. Buongiorno a voi da Nicoletta, siamo alla BIT, al Padiglione 3, e non potevamo perdere certo l'occasione per parlare di viaggi. Uno dei tratti comuni a chi viaggia è quella piacevole frenesia che spinge ad andare, è il desiderio di cambiamento che si rinnova per avere possibilità diverse, per guardare orizzonti più vasti, per dare nuovo ossigeno alla mente. Quasi tutti i viaggiatori raccontano che il viaggio è proprio questo, un bisogno piacevole di staccarsi dal quotidiano per andare lontano e tornare diversi, cambiati. Allora io oggi vi propongo subito qualche domanda per attivare la vostra partecipazione. Viaggiate con me sull'onda dei vostri ricordi, dei sogni, dei viaggi che tenete nel cassetto. 800 24 0024. Pronti ad ascoltare, pronti ad intervenire. Qual è il viaggio che porti nel cuore? Qual è il viaggio che tieni nel cassetto? Qual è il viaggio che ti ha cambiato? Meglio soli che male accompagnati, dice il proverbio. Come scegli i tuoi compagni di viaggio? E a proposito di compagni di viaggio, Skyscanner, che è un sito di comparazione di voli leader in Europa, ha realizzato un sondaggio per scoprire quali sono i compagni di viaggio meno graditi in aereo. Al primo posto di questo singolare podio si trovano le persone che emanano un cattivo odore. Infatti il 35% dei viaggiatori eviterebbe volentieri di dover viaggiare con il naso tappato per gli odori sgradevoli. Al secondo posto troviamo i compagni di viaggio morbidi. Il 19% dei partecipanti al sondaggio vorrebbe evitare di vedere occupato il proprio spazio vitale in aereo, già spesso limitato. A chiudere il podio, neonati e bambini. Al 16% delle persone, urla, bizze e piagnistei sembrano essere poco graditi. Poco tollerati anche comitive, chiacchieroni e i tipi un po' nervosetti, come quelli terrorizzati dall'idea di decollare. Potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. E allora, a proposito di viaggio e di viaggiare, vi presento i nostri compagni di viaggio. Sono profumati, riservati, compagni di viaggio perfetti, ciascuno con un'idea di viaggio da suggerirci. Uno lo conosciamo bene, il dottor Attilio Speciali, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buongiorno a tutti. Grande buon amico di essere. Facciamo, buon sì. Viaggio. Dottor Speciali, ho tante cose da chiederle. La prima... provi un po' a rispondere alle domande che abbiamo scelto per attivare i nostri ascoltatori, a cui hanno già risposto anche i nostri amici sul nostro profilo Facebook. Francesco in modo particolare proprio è stato perfetto. Il viaggio che porti nel cuore, il viaggio che tieni nel cassetto, quello che ti ha cambiato e meglio solo o male accompagnati. Assolutamente, direi che il viaggio che porto nel cuore è un viaggio in Marocco, che è stato bellissimo perché è guidato con tutta la famiglia, quindi in realtà con i bambini, torniamo alla ricerca di prima, che erano in un pulmino tutti insieme, quindi anche i lunghi passaggi, i lunghi movimenti erano gestiti senza problemi di bambini che giocavano praticamente nel pullman, quindi la possibilità di godere del Marocco e delle sue diversità splendide. Tengo nel cassetto un viaggio, questo rimane, in realtà non è così difficile da fare, però i fiordi norvegesi, per cui è sempre mancata questo tipo di logica, l'idea di salire su un urtigruttene, di muoversi, di andare a vedere, serve meditazione, serve, non bisogna avere lì compagni di viaggio, quello è un tipico viaggio che magari merita di essere fatto da solo. Quello che mi ha cambiato a Haiti, indubbiamente, dove faccio un lavoro di volontariato e scoprire anche lì la povertà, il modo in cui si può invece dare molto, è stato quello che ha cambiato poi la storia anche della mia vita. E poi si viaggia da solo, non è vero, oggi non si viaggia da soli, viaggi con la famiglia, perché anzi quando vai in posti brutti chiedi in famiglia e ti dicono no andate pure tua mamma, poi invece quando chiedi invece proponi viaggi belli improvvisamente saltano fuori tutti e si viaggia, liberi. Quindi bisogna spendere poi un pochettino di più, insomma. Francesco ci scrive: la mia prima vacanza fatta in Puglia con la mia macchina usata, questo è il viaggio che porta nel cuore, che tra l'altro ha trovato su eBay e ancora conserva gelosamente. quella che tiene nel cassetto una nuova vacanza on the road, per esempio in moto, anche in Italia va bene. Il viaggio che gli ha cambiato, Francesco ci scrive che crede che tutti i viaggi ci cambino in meglio, aprendo la nostra mente. E quanto alle compagne di viaggio, ci scrive che il primo viaggio l'ha fatto da solo e le conoscenze sono venute in automatico, basta tuffarsi. 800 24 00 24, noi oggi viaggeremo con un altro viaggiatore d'eccezione che vi voglio presentare così. È partito dal suo paese in provincia di Bergamo e poi è andato sempre in direzione est. Ha preso l'elefante, il cammello, navicargo, canoa e piroghe. Ha preso anche un risciò, una barca a vela e un'ape in cui stavano 36 persone. L'aereo mai. Usando sempre lo stesso paio di scarpe, è passato per Italia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia, Lituania, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Cina, Xinjiang, Pakistan, India, Uttarakhand, Nepal, India, Bengala, Uttar Pradesh, Rajasthan, Kerala, Tamil Nadu, Singapore, Malesia, Thailandia, Laos, Cina, Corea del Sud, Panama, Colombia, Ecuador, Cile, Argentina, Uruguay, Brasile, Amazzonia, Pantanal, Perù, Bolivia, Brasile, Costa, Nord-Est, Marocco, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Spagna, Francia e Italia. Ha percorso 108.206 km in 467 giorni, ha visto 36 paesi, ha bevuto 450 litri d'acqua e perso 15 kg. E qua con noi alla BIT Eddie Cattaneo, ciao Eddie. Ciao, buongiorno a tutti. Autore, grande viaggiatore, tra l'altro potete così ripercorrere con lui il suo viaggio in un libro che racconta il viaggio attraverso i sensi, ed è qua, ed è questo che noi cercheremo di fare oggi insieme a lui e col dottor Speciani, si intitola Mondo via Terra, Feltrinelli Editore. La domanda è classica, è che fatela fare, è più difficile partire o tornare? Per me è stato più difficile partire, lasciare tutto senza sapere quello che sarebbe accaduto. Io in realtà lavoravo, avevo un posto fisso, casa, mi ero trasferito da Ciserano, il mio paesino in provincia di Bergamo, a Recco, quindi Riviera Ligure, stavo da Dio, stavo molto bene, però e c'era questa febbre che in realtà era lì e non è che dovessi partire, ma non è che volevo partire, dovevo partire, ecco, quindi era un'esigenza intima. Quindi lasciare tutto quello che avevo per non sapere quello che sarebbe successo è stato difficile, è stato il passo più complicato. Tornare in realtà è venuto dopo un anno e mezzo. Ci hai messo 108.206 chilometri, sì, no? Per tornare. Sì, fatti tutti appunto senza, tutti sulla terra, quindi senza prendere aerei e quindi vissuti giorno per giorno. A un certo punto sulla strada in qualche modo arriva il momento, non c'è stato qualcosa di razionale, qualcosa che fosse legato ai soldi o alla stanchezza. Arriva un momento nel quale capisci che è giunto il momento, che è l'ora di tornare. Quindi tornare è stato, da quel punto di vista lì, abbastanza... Una passeggiata. No. Dottor Speciani, c'è chi nasce con la valigia in mano e chi con le pantofole ai piedi. Anche se con il tempo però qualcosa ci ha cambiato. Noi siamo nati per viaggiare, siamo nati nomadi. Assolutamente. Noi siamo hunter and gatherer, cacciatori e raccoglitori, e nella nostra storia per almeno direi quasi 900.000 anni abbiamo girovagato alla ricerca di pascoli diversi, di prede, di frutta, verdura e di sole. A me questa cosa piace molto. Quando prima ho sentito le indicazioni di Eddie, l'idea che sei andato verso est, no? Come dire, quelli che andavano verso ovest sono fermati perché c'erano il mare e solo pochi si sono mossi. Tra l'altro li richiamo perché quando penso a Pessoa, hai citato Pessoa all'inizio, e quando vai in Portogallo evidenzi proprio questa storia che hanno loro, per cui lì sul bordo e andavano comunque, no? E magari stavano via 15 anni prima di tornare, per cui questo dato è assolutamente importante perché sconvolge. Una cosa vera del viaggio, e mi ha fatto piacere quello che abbia detto lui, è proprio questo senso di trasformazione, per cui in realtà il viaggio stesso è un momento in cui cambi, quindi cambiano le percezioni, cambiano i pensieri. Uno che sta con la focaccia di Recco a Recco, perché deve andare a cercarsi delle cose strampalate, esatto, in giro per il mondo, dai, parliamo di uno dei gusti migliori della vita, no? Invece va, si muove, questo è importante. Noi ce l'abbiamo nel sangue. sono nati solo col neolitico le persone che restano, poche ce l'abbiamo, qualcuno con le pantofole c'è, però sì, sono solo da 10-12 mila anni nella nostra storia evoluzionistica, quindi siamo molto di più quelli hunter-gather, cacciatori come siamo Eddie, abbastanza qui di fianco, più vicini a Eddie, nonostante tutto. Domandone, perché si parte, perché volete partire voi, perché siete partiti? 800 24 00 24, sentiamo. Forse per riempire una mappa vuota, o per perdersi, o forse solo per giocare in un prato più grande. Non lo so, so solo che questa volta non mi voglio dare nessun limite. Che bello dirlo, questa volta il limite è il mondo. Eddie, a riascoltarti quasi ti commuovi. Perché? Mi ricordo tante cose, insomma, è stato l'inizio. Quello che ho scritto è la prima cosa che ho scritto prima di partire, su dei foglietti. Senti, io vorrei proprio partire, a parte che abbiamo già gli ascoltatori che ci chiamano, continuate a farlo, 800 24 00 24, possiamo anche chiedere consigli di viaggio a Eddie, ma consigli di viaggio non tanto di luoghi, ma come vivere i viaggi attraverso i sensi, che è poi la cosa bella del tuo libro, no? Che racconti nel tuo libro, perché ti sembra proprio di essere lì. Ci sono dei momenti in cui senti i profumi dei luoghi, e quindi io mi ricordo, dottor Speciani, lei se le ricorda quei libri che avevamo quando eravamo bambini, che si grattavano? Fantastici. E veniva il profumo di cioccolato, oppure che si aprivano e c'era fuori, no? L'immagine diventava, usciva la carta, la produzione, è bellissima. Sembra un po' così il tuo libro. Ah, ti ringrazio. Allora, partiamo dalle immagini, perché il dottor Speciani accompagnerà tutti i tuoi ricordi di viaggio e quelli dei nostri ascoltatori, trasformandolo anche in occasione di benessere, perché la ricerca si è data molto da fare in questo campo. E basta pensare al fatto che nel penultimo congresso, già nel 2009, del American Institute of Cancer Research, quindi una delle massime entità che studia il cancro, un'intera sessione era dedicata alle spezie e alla loro attività antitumorale, un'intera sessione dedicata alla curcuma, che è uno dei miei integratori preferiti, quindi, e poi sono sicuro, perché per il colore, per l'odore, per tutto, farà parte del discorso anche di Eddie. E assolutamente, poi nel libro di Eddie ci sono delle ricette, sono anche ricette. Da che senso vogliamo partire? Dalla vista. La vista, la prima cosa che mi viene in assoluto in mente è sulla via della seta. L'Uzbekistan in realtà mi ha stupito, non sapevo quasi niente di questo posto, ed è come entrare nelle mille e una notte in tre dimensioni. E ci sono i mosaici che abbelliscono le pareti delle madrasse, dei minareti, che sono... hanno dei colori sgargianti, sono maioliche blu, elettrico, verde, smeraldo, ci sono colori dall'ocra al bianco, non ci sono immagini ma solo motivi floreali, e con il sole di settembre, di quando ci sono arrivato io, un cielo assolutamente terso, è il primo ricordo forte di vista che ho in mente, assolutamente. Si scoprono quasi nuovi colori. Si scoprono nuove sfumature molto intense. E pensa che prima, mentre lui raccontavano l'elenco dei posti in cui è passato, mi ero segnato l'Uzbekistan, perché l'Uzbekistan ha una produzione di berries, quindi di mirtilli, di lamponi, di tutti quelli che sono chiazzettine di colore piccolissime dovunque, nel cespuglio, dovunque possa essere. Adesso che lui raccontava queste piccole tesserine che vanno a costituire dei ritmi di colori fantastici, mi veniva in mente che è strano che questa cosa ci sia proprio in uno dei paesi che è il massimo produttore di berries, quindi di frutti di bosco con colori che sono spettacolari. Quindi siamo alla vista. Le immagini dei vostri viaggi, 800 24 00 24, ma abbiamo intanto Fabio da Modena e Antonio da Brescia, abbastanza vicino, sì, no? A te. Più o meno. Fabio, buongiorno. Buongiorno, salve e complimenti per la trasmissione. Io volevo raccontare il mio viaggio. A me il viaggio veramente ha cambiato la vita, perché io l'anno scorso, il 21 di novembre, sono partito con mia moglie e siamo stati in Colombia, dove abbiamo adottato i nostri due figli, due bellissimi gemelli, e quindi questo viaggio in Colombia ha durato oltre 20 giorni, ha cambiato la vita e abbiamo bellissimi ricordi, ogni volta ci emozioniamo quando parliamo, perché oltre ad essere stata una emozione forte abbiamo incontrato anche persone veramente speciali che ci hanno aiutato nella nostra permanenza, ci hanno aiutato anche moralmente, perché naturalmente capito che è un'esperienza molto molto forte anche dal punto di vista psicologico, e quindi insomma un onore alla Colombia e alla sua popolazione, che veramente sono persone straordinarie nonostante la povertà e nonostante tutto quello. E lei che... ha iniziato un nuovo viaggio, quello del genitore, del papà. Ah, certo, siamo in pieno viaggio. In pieno viaggio, è un viaggio straordinario. È una seconda vita. Fabio, mi regala un'immagine, un sapore, un suono di questa sua esperienza? Perché vogliamo proprio io purtroppo mi tocca regalarle un'immagine che della Colombia mi è rimasta molto impressa, ovvero la povertà. L'estrema povertà che ho incontrato, e quando noi qua ci lamentiamo, è vero, tutto quello che è l'economia, che non viaggio meno, però abbiamo tutto il telefonino meno. Io ho visto dei bambini veramente abbandonati a se stessi in mezzo alla strada, bambini di 12-13 anni abbandonati al destino, e c'era questa forte presenza di povertà. Quindi un'immagine di povertà, un profumo? Il profumo invece, devo dire, nelle osterie, al contrario di quello che fanno di norma gli italiani, io mi sono proprio addentrato nelle osterie colombiane, e questo profumo delle zuppe, loro hanno questi odori fortissimi di zuppa di tutti i tipi, dal pollo piuttosto che le verdure, abbastanza speziate. Quindi il profumo di zuppe come suono? E come suono, devo dire, senza ombra di dubbio, i clacson di Bogotà. Questo è il clacson di Bogotà. Saluti i tuoi bambini. Grazie Fabio per essere intervenuto. 800 24 00 24. Suoni. Eddie. Suoni è un mondo. Un mondo davvero. È un concerto. Io poi adoro ascoltare musica diverse, quindi ho riempito il mio lettore MP3 di qualsiasi cosa potessi trovare in giro, rubandola o prendendola da amici. Comunque suono è il primo, senza pensarci, è, a parte le canzoni, questo cantastorie griot che ho conosciuto in Burkina Faso, e raccontava attraverso una canzone le gesta del capofamiglia a cui stavamo facendo un augurio di buona vita. Era il giorno della festa del sacrificio, quindi il giorno più importante in quella parte d'Africa, e c'era questa figura del cantastorie che stava raccontando, mi hanno spiegato, io ovviamente non parlo il bambara o quello che è, mi hanno raccontato che quella canzone narrava delle gesta del capofamiglia. Essere e benessere. Viaggiare mi sembra un'occupazione utile. L'anima è continuamente occupata a osservare cose sconosciute e nuove, e non conosco miglior scuola di vita, come ho detto spesso, che proporle costantemente diversità di tante altre vite, fantasie, usanze, e farle gustare una così grande varietà di forme della nostra natura. Sì, lo confesso, non vedo nulla neanche in sogno o nel desiderio in cui possa soffermarmi. La varietà in se stessa mi appaga, seppure c'è qualcosa che mi appaga, e il godere della diversità. Dei viaggi anche questo mi piace, che posso fermarmi senza inconvenienti e interromperli quando voglio. Michel de Montaigne. Viaggiare è un'occupazione utile, scriveva Michel de Montaigne. Siamo alla fine del 1700, Eddie, e in effetti anche tu più o meno scrivi le stesse cose. Non è cambiato niente. Non è cambiato nulla, perché siamo rimasti uguali. È un'esperienza utile, ma soprattutto un'esperienza salutare, sotto diversi profili. Noi proviamo a viaggiare attraverso i sensi. Che cosa ti ha lasciato questo grande viaggio senza limiti, anzi con il limite il mondo? Una grande apertura da un punto di vista del lasciare andare le cose come devono andare. È un po' come rientrare in una specie di flusso, che adesso che sono qui da un po' ormai in qualche modo sento più distante, perché non ce n'è. È molto, stando via un anno e mezzo sempre sulla strada, sempre in culture diverse, che sono abituata ad un ritmo di vita molto più leggero, tranquillo, ti lasci più andare, ti lasci fluire. Questa cosa mi è rimasta, cerco di trattenerla, ma è parecchio complicato qui. E l'apertura mentale soprattutto, perché un conto è leggere, sentire di posti diversi, un conto è viverci, certo, attraversarli. E perché fai proprio un'esperienza diretta. Esperienza e conosci. Dottor Speciani. Ma questa cosa mi richiama al fatto che a volte in ambito di terapia proprio, no? Persone che non riescono a comunicare un certo tipo di problema, di percezione in una lingua, magari gliela fai dire in inglese o gliela fai dire in tedesco oppure gliela fai dire in francese, se hanno una buona percezione. Ed è lo stesso, perché a quel punto la persona trasmette una sfaccettatura completamente diversa. Così è il viaggio, l'entrare in una cultura differente ti obbliga, proprio attraverso i sensi che abbiamo descritto prima, ad attivare delle zone di cervello e quindi dei tipi di ragionamenti, degli algoritmi che sono profondamente diversi da quelli in cui tu magari eri arenato e bloccato. Allora, la logica è, secondo me, alla fine di un viaggio bellissimo, di lavorare perché il tuo sia costantemente un viaggio, cioè mantenere anche nell'oggi, nella situazione contingente, il piacere di poter godere delle cose, di potersi divertire, di poter trasmettere comunicazione, quindi le nuove sfaccettature, essere creativi, dai, questo mi sembra... Questo che... assolutamente, tu comunque ti ricordi bene il viaggio tuo. Sì. Perfetto, perché Nicola da Verona mi chiede: potreste chiedergli dove sono le più belle ragazze? Facciamo una mappa. Dura questa. È fidanzato e dura. Sì, appunto. A parte Bergamo, città alta. Che ha le migliori in assoluto. Ecco. Sappiamo dove abita la sua fidanzata. Va esatto, bene, okay? Esatto, mi sono appena trasferito. Ma direi, come immagini, ovviamente tutto, però io ho bene... Dove vivono le donne più belle del mondo, no, a parte Bergamo? Quello che mi ha davvero sconvolto i sensi sono queste ragazze della città vecchia di Bamako, che hanno portamento, sono alte. Bamako, dove si trova? Capitale del Mali. Sì. Perché? Un portamento da regine, da modelle, perché devono andare a prendere l'acqua. L'acqua non c'è quasi da nessuna parte, quindi c'è una pompa comune. Devono davvero fare questa strada tutti i giorni a piedi, devono mettersi il secchio, la tanica di acqua sulla testa. E quindi fin da bambine sono abituate a camminare con un'eleganza e un equilibrio che le rende regine. Poi sono vestite benissimo, hanno tutto in pandana, hanno le treccioline perfette, hanno tutti gli aggeggini al posto giusto e sono, hanno un viso fantastico, come se fossero avvolte da un'ara, da un'area di bellezza, di energia. Sì. Allora fermiamoci qua, perché vedo che Pietro Lacorte, che qua in regia la parte tecnica, vedo che è particolarmente interessato e si sta già puntando Mali, ma noi invece andiamo a Brescia perché c'è Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io volevo raccontare dell'esperienza che abbiamo fatto io e mia moglie quando nel 2006 ci siamo sposati e abbiamo deciso di andare a Capo Nord come viaggio di nozze in moto, contro lo stupore di tutti, perché tutti vanno in posti agiati a prendere il sole quasi, sì. Noi no, siamo partiti in moto e ci siamo fatti 9.000 km andate e ritorno tutta via terra, e è stata una cosa stupenda. E lei ha pensato: se torna con me e non mi lascia, vuol dire che è la donna giusta. Sì, sì, perché sì, l'ha messa subito molto alla prova lei, sua moglie, ha giocato un po' col fuoco, no, andando a Capo Nord. Io devo dire che la moto l'ho comprata con la complicità di mia cognata, perché lei l'ha comperata e ho detto: ma io che guido i pullman, come non posso avere una moto? Allora me la sono comperata e via. Dopo tantissimi anni siamo partiti e dopo sono seguiti moltissimi altri viaggi, tutti in moto, uno più bello dell'altro. E comunque viaggiare in moto, noi che abbiamo viaggiato parecchio anche in macchina, così dà un'altra emozione, perché arrivi in luoghi, la gente ti viene attorno, ti chiede da dove vieni, dopo noi come dei fanatici abbiamo un bauletto con su tutti gli adesivi, la gente si mette lì a mirare dove sei stato, è una cosa bella. Grazie Antonio, abbiamo viaggiato anche un po' con Antonio da Brescia e andiamo a Monza con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo raccontare la mia esperienza. Premetto, il mio amore per i viaggi è nato dall'amore per le lingue straniere, lo studio dell'inglese, poi più avanti dello spagnolo, una laurea in lingue e quindi è una famiglia soprattutto numerosa con la quale non ho mai potuto viaggiare all'estero. Sì. E dopo alcuni anni di lavoro a tempo determinato, sostituzioni maternità, diciamo dalla laurea dei 25 anni e 27, ho capito che senza un contratto a tempo indeterminato avrei potuto sfruttare, diciamo, questa possibilità per andare all'estero e fare un'esperienza di vita. Sì. Un'esperienza che mi avrebbe arricchito e che poi con un contratto che mi avrebbe vincolato magari non avrebbe futuro, più non avrei potuto più fare. E dove è andata? Sono andata a Dublino. Quindi, ho contattato un'agenzia di ragazze alla pari, insomma, che procurava ragazze alla pari. Ho preso e quindi è stato un viaggio un po' di esperienza, ma anche di lavoro, eh? Sì, diciamo, non era la parte, sì, anche studio, perché comunque frequentavo un corso. Maria Grazia, mi regala un'immagine? Mi regala un'immagine della sua soggiorno irlandese? Un'immagine, ma sicuramente l'esperienza internazionale, perché ho conosciuto molte persone internazionali, ma ho sfatato anche dei luoghi comuni. Ad esempio? Perché per esempio si dice che gli irlandesi, diciamo, tutti i popoli anglosassoni sono quelli più simili agli italiani. In realtà sono anche un po' falsi. Nel senso che penso che un italiano non avrebbe mai utilizzato un biglietto d'auguri come sottobicchiere e poi l'avrebbe buttato nel fuoco. Insomma, sono bizzarri questo. Allora, insomma, quindi non consigliamo fidanzati irlandesi, perché Eddie ha suggerito le donne più belle del mondo a Bamako, a Mali, in Irlanda. No, non ne troviamo di fidanzati. Normali, tipiche. Normali, allora niente, sì, niente, sì. Passiamo oltre. Grazie Maria Grazia. Dottor Speciani, Maria Grazia fa un'esperienza per imparare le lingue, lei si era soffermato sull'importanza anche della musicalità a proposito di sensi. Assolutamente, credo sia, come dicevamo prima, ha un'attivazione diversa di aree cerebrali differenti. Infatti, prima mentre Eddie parlava, pensavo al rumore del mare e di come, anche se il mare è sempre quello, voglio dire, uguale, tutto sommato, in realtà ogni costa, ogni spiaggia, ogni luogo, ogni parte del mondo ha un rumore di mare che, se tu ascolti durante la notte, mantiene una ritmicità che è fondamentale per il tuo riequilibrio. Allora, questo ha un'azione potente sulla salute, perché va a ricalcare dei ritmi che sono quelli di neutralizzazione e di normalizzazione cerebrale, che è un altro dato che correla viaggi e salute. Dormivi bene? Benissimo. Benissimo. 800 24 00 24, voi invece state sveglissimi, chiamateci, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Pietro, stai pensando al Mali, Essere e benessere. E siamo tornati. Dottor Speciani, ci dicevo un collegamento tra viaggio e salute, perché cambiamo anche fisicamente quando torniamo da un viaggio, più morbide a seconda di dove si va e quanto dura. Tu sei tornato bello sfilatino, sì, sì. 15 kg hai perso. Sì, sì, 15 kg. Però ha bevuto 400... Ha bevuto poco. Ecco, noi siamo venuti qua per sgridarti in realtà. No, fate bene, io ci ho provato, ma è... A parte la difficoltà nel reperire l'acqua, perché bisogna andare a comprare, trovare il negozio, eccetera. Potevi accompagnare una ragazza di Bamako. Esatto. L'acqua gliela prendo io. E... Un gesto galante. Questo, vedi. Portavo via un prossimo litro. Viaggio ti do io due dritte. È vero, si ritorna, lui ha perso 15 kg, ma nei viaggi di solito, almeno quelli estivi, noi ritorniamo sempre invece un pochino più. Ma questo però dipende poi, perché la gente in realtà usa il viaggio per sfoghi anche di tipo alimentare talvolta. Un dato che spesso trovo è persone che invece finalmente dormono. Questo è un bel dato, no? Se sei in situazioni dove non hai televisioni accese, situazioni che ti tengono sveglio durante la notte, computer che puoi connettere a qualsiasi ora del giorno o della notte, in realtà sei obbligato a seguire un po' le indicazioni solari. Questo aspetto porta ad un'azione naturale, ad esempio, di dimagrimento, che è molto importante. Io ricordo un viaggio che ho fatto in un luogo in cui per la prima volta per 3 settimane di fila non ho potuto, era in Polinesia. Sì. Però non c'erano connessioni, non c'era possibilità di stay in touch, come dire, no, col mondo esterno, per cui si seguiva il ritmo del sole. Ed è stato uno dei viaggi più come dire, asciuganti, cioè mi sentivo il corpo che finalmente rispondeva ad un equilibrio legato al sole, che quando si entra in sintonia, e credo camminando, come ha fatto Eddie, sia una delle cose più importanti, si risvegliano dei ritmi profondi, interni, che sono legati proprio alla nostra storia evoluzionistica. Rientriamo in una dimensione in cui siamo davvero più pronti a sentire i segnali dell'organismo e rispettarli. Quindi un consiglio per chi potremmo dare: cercate di ritagliarvi il tempo per un viaggio, questo dovrebbe essere il viaggio nel cassetto per la nostra salute, per rinascere, in cui proviamo a rispettare e a seguire i ritmi della natura. Questo è fondamentale. Se riusciamo a rientrare in un rispetto dei segnali, l'organismo tende spontaneamente ad uno stato di benessere. Questo sarebbe il viaggio ideale, quello che ci chiede il nostro organismo. Poi ci sono tante altre cose che... Morris, da Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dove è andato? Lei mi porta una fotografia, un profumo, un suono? Le posso portare delle fotografie. Delle fotografie delle scogliere di Lanzarote, il freddo dell'acqua dell'oceano nelle nuotate. Ne posso portare uno scorcio dell'Elba ad Amburgo. Le posso portare il divertimento delle feste nei parchi americani. Una serie di viaggi che ho avuto la fortuna di fare nella mia vita. Quasi quasi partiamo con lei. Ci ha stregato. Guarda che questo è un personaggio, mi perdono, Morris, visivo perché parte con le fotografie, però è un cinestesico, cioè racconta le sensazioni. In realtà ti presenta un'immagine e contemporaneamente ti dice com'era l'emozione che stava vivendo. Che bello, una dimensione positiva questa, anche dal punto di vista della salute, perché gli consente di esprimere pienamente. Morris, ha capito? Sì, ho capito, bello, interessante. Io ho iniziato a viaggiare a 16 anni per un'esperienza di viaggio studio negli Stati Uniti che mi ha portato a rimanerci per un anno. E poi ho continuato a viaggiare per studio, per lavoro, proprio come una pulsione, una necessità di vedere luoghi diversi e di rimanere in questi luoghi per apprendere, per conoscere persone, il modo di vita di questi posti. Oggi ho un'attività, ho un locale e purtroppo da 8 anni non riesco più a viaggiare, mi sento in una sorta di prigione, però ho la fortuna di cucinare e quindi ogni volta che ho la possibilità di andare in un luogo riporto un gusto, un sapore e cerco di riproporlo nelle mie preparazioni, ecco. Eh sì, ma questa è un'ottima idea, perché per chi non può viaggiare, potreste darci, dottor Speciani ed Eddie, un consiglio per viaggiare nel quotidiano. Iniziamo con te, Eddie. Mi sembra di essere... ti ho beccato. Una ricetta? Una ricetta che ci permetta di viaggiare stando fermi. Ah, il ceviche peruviano. E com'è? È pesce marinato. Cipolla, peperoncino e lime. Quindi è, diciamo, non è cotto, è marinato, quindi in qualche modo un semplice metodo di cottura senza forno e viene servito in queste cevicerie, sono proprio dei piccoli locali dove fanno il ceviche in vari modi. Questo è un gusto buono, diciamo. Ho assaggiato anche, a proposito di gusto, cose molto più cattive. Qual è la cosa più cattiva? Che ho assaggiato cavallette fritte. Cavallette in Thailandia. Che cosa sanno? Sanno di gamberetto, molto più quindi forte. Quindi buono però. Sì, quando schiacci la testa sotto i denti, che non è molto... Che urlano. Sì, urli tu, in realtà senti proprio il croc degli occhi, non è proprio... Però c'è una moda adesso sul consumo, sì, anche, vero? Sì, no, ma... Questo è stato, poi in realtà altre cose, in Burkina per esempio c'è il gombo, che è una specie di melanzana molliccia, sembra un blob. Quello, il gusto non è tanto buono, ma soprattutto la consistenza è tipo il blob dei bambini, quello verde, sì, eccetera. E si mangia con la polenta di miglio. Così non mi viene distinto adesso. Da dire portate due noci. Sì. No, volevo dire quello buono e quello cattivo. Questo è quello che in qualche modo è più distante. Invece sono dell'idea che i residui dei viaggi sono spesso nei colori delle spezie che ci portiamo dietro. Sì. Quindi citavo prima la curcuma, ma veramente tante situazioni e questi colori che riprendono per proprio l'immagine dei mercati dove trovi il rapporto con le spezie, che ripeto sono elementi che vanno a stimolare un rapporto di benessere, quindi colore quindi, dappertutto. Ecco, viaggiamo anche con le spezie. Assolutamente sì. Abbiamo tempo, forse se è velocissimo, per farci regalare un'immagine, un suono, un ricordo da Massimo che ci chiama da Viterbo. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno Massimo, mezzo secondo per raccontarci il suo viaggio. Sì, beh, io ho avuto lo stimolo da mio figlio che si è trasferito in Australia e mi ha permesso di fare il viaggio che credo tantissima gente sogni, cioè andare appunto in Australia. E l'ho fatto con mia moglie e l'altro figlio che ha 22 anni, quello sì, che ma mi regali qualcosa attraverso i sensi, può essere un'immagine. Guardi, le posso regalare dal punto di vista visivo l'arcipelago delle White Sunday, che è una roba, sembra finta, non sembra vera, tanto che bella. Sì, poi posso dirle un rumore, o più che un rumore, un suono, il didgeridoo, che è uno strumento appunto degli aborigeni. Sì. E posso dirle i sapori del calamaro gigante mangiato acquistandolo alla Queen Victoria Market di Melbourne, morbidissimo, cioè una roba lunga un metro e mezzo, pensavo fosse durissimo, invece era si scioglieva in bocca, come si dice. Grazie Massimo, ci ha fatto proprio viaggiare. Questo mi piace perché oggi siamo andati un po' ovunque. Io vi consiglio la lettura di Mondo via terra di Eddie se volete partire, ma soprattutto se volete prepararvi ad un viaggio e a riattivare un po' i vostri sensi, per viaggiare proprio con la terra sotto i piedi, anche se prendete un aereo. Eddie, spero di incontrarti presto. Riparti anch'io. Tra poco? Ma, no. Magari. Stai, dottor Speciani, invece noi ci vediamo. Noi ci vediamo senz'altro. Noi invece... E teniamoli vivi i sensi, perché a volte ci facciamo passare davanti le cose senza vederle. Assolutamente. Io vi aspetto domani, sempre dopo il GR delle 11. Grazie a Laura Vanossi e a Pietro Lacorte. Essere e benessere.